dammi in due per le tre. Dammi in due per le tre. In capo al mondo, vicino a te. Molti chilometri da fare. Chilometri da fare. Non c'è parcheggio, camminerò. Poi prendo il treno, scendo in stazione. Non c'è la metro, si è rotto il motore. Di corsa due isolati o tre. Giungo puntuale, ma col fiatone. Non c'è nessuno, già temo un bidone. Dopo mezz'ora arrivi te. Una sera perché no? Una sera perché no? Vogliamo andare al casino. Suono al citofono puntuale. Suono al citofono puntuale. Dopo un minuto rispondi che ti stai scendendo ma non trovi maglione. Quando lo trovi non ti piace il colore. Io spengo l'auto perché so che i tuoi capelli devi ancora asciugare. Almeno un'ora dovrò ancora aspettare. Stasera no, non giocherò. Durante il tempo qui scendi le scale, mangi un intero panino al salame. E mi accompagni alla partita, arrivo lì che è già poco finita. Vai a teatro così in orario, che appena arrivi si chiude il sipario. Ma se una volta io tanto un minuto, mi guardi male e mi togli un saluto. Se così tardi sai di arrivare, potresti almeno telefonare. Immaginando una simile attesa, avrei potuto fare la spesa. Nemmeno provi a giustificarti, credi normale per tutti aspettarti. Ma se una volta io tanto un minuto, mi guardi male e mi togli un saluto. Sai tante volte mi chiedo davvero se non sia io forse troppo severo. Non sai che forse non lo so, ma di aspettarti mi sono stancato. Di troppo tempo mi hai già derubato. E da domani cambierò e capirai che sarà il momento. Al nostro prossimo appuntamento uno scherzone ti farò. Non capirai, sarà il momento quando vedrai che non mi presento. Aspetta e spera, arriverò. E capirai che sarà il momento del nostro ultimo appuntamento. Aspetta e spera, non verrò.